regina, accenni tuoi. Prendi e di Priamo il figlio rega questo mio scritto. Io sì, ma tanto inoltrarmi non bramo né segreti del re. Perché potrei, forse in degna mercede, ritrarne un dì? Avanza il prence. A dove sconsigliato mi volto? Il tuo comando adempirò. Va, ma lui stesso appunto. Oh, te, l'ultimo sforzo d'un disperato amore, il cesse con me. Ella scrisse.